Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine e trasmetteremo in diretta fino alle ore 21:30, ora sono ovviamente le ore 20, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questa era la sigla di questa trasmissione radiofonica che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Siamo, come già detto, in diretta e questa è stata la sigla e ora andiamo all'ascolto di questa band, cioè vi presento questo disco. È una band canadese, esattamente da Montreal e, se vogliamo dirla tutta, dal Quebec. Loro sono i Ballast, da un loro album datato 2005, Sound Asleep. Andiamo all'ascolto di uno o più brani, band che comunque questa era esistita proprio agli inizi degli anni 2000. Bene, andiamo all'ascolto di questi Ballast. Un saluto a tutte e a tutti. Zardins Magnetics, programma condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. Allora, ci troviamo la prima settimana di ottobre, è la settimana di internazionale in solidarietà con i prigionieri anarchici di lunga condanna. E ricordo che qualche anno fa, in occasione di questa settimana, avevamo organizzato a Trieste, davanti fuori dal Coroneo, un bel presidio così per salutare e incoraggiare tutti i detenuti, ma nello specifico per il nostro compagno Cabu, che allora era detenuto appunto al Coroneo. E abbiamo pensato così di ricordare questa, di dare un contributo, insomma, di parlare di questa settimana di solidarietà con i prigionieri anarchici di lunga condanna, leggendo una lettera, la lettera di Marcello Villarroel. Un saluto irriducibile di resistenza alla società carceraria. Per tutte e tutti le prigioniere e i prigionieri rivoluzionari, anti-autoritari di tutte le tendenze. Per i prigionieri e le prigioniere mapuche dello Stato cileno che camminano per il sentiero dell'incontro tra ribelli di questi territori e affini che combattono nemici comuni. Per le iniziative d'appoggio combattivo, di complicità ribelle, di solidarietà costante tra il Veikan, che significa lotta nella lingua mapuche, e la guerra sociale antisociale. Per coloro che, per passare all'offensiva, fuggono dalle grinfie dell'autorità e vivono da fuggitive, illegali e clandestine in diversi luoghi del pianeta, rendendo le loro vite un atto continuo di sfida sovversiva alle leggi che ci impone il potere e il suo monopolio terrorista della violenza statale. Per Monica e Francisco, amati fratello e sorella che si preparano ad affrontare la vendetta della classe dominante che cerca di seppellirli per decenni sotto tonnellate di cemento e metallo penitenziario. Per Alfredo Cospito, nelle carceri italiane che si scontra con un isolamento brutale, con vera tempra anarchica. A Juan Sorroche, anche lui sequestrato dallo Stato fascista italiano, recentemente condannato a 28 anni di galera. Per Claudio Lavazza, compagno resistente, oggi nelle carceri di Francia. Per Gabriel Pombo da Silva, sequestrato in una galera perpetua, nascosto dallo Stato spagnolo. Per l'eterno Mumia Abu Jamal e la sua lunga resistenza nelle carceri Yankee, le peggiori del pianeta. Per Nikos Mazziotis e Paula Rupa, guerriglieri urbani di lotta rivoluzionaria, ostaggi dello Stato greco. Per Emilio Berkov, Luis Tranamil e tutti i prigionieri politici mapuche che mantengono vivo il Veikan, la lotta. Per Juan Aliste e Joaquín García, miei fratelli di lotta quotidiana e millimetrica contro il malsano isolamento carcerario. Per tutte le prigioniere e i prigionieri, degne e degni, che sono parte delle lotte nei loro territori in difesa della vita, contro la devastazione del pianeta, contro il capitale estrattivista, contro l'autorità, cercando l'autonomia in tutti gli aspetti, per vivere bene. Un saluto fraterno, un abbraccio sincero, un invito a continuare a costruire in tutti gli spazi possibili l'urgente resistenza offensiva attraverso la moltiplicazione permanente di comunità di lotta. È necessaria anche una chiamata per l'annullamento delle condanne della giustizia militare che oggi mi vengono imposte per giustificare un chiaro sequestro statale. Agitare, diffondere, propagare, insistere, persistere è l'attitudine e la volontà per la nostra necessità presente in cui siamo collettivamente per poter uscire di galera quanto prima. Memoria, resistenza e sovversione. Finché c'è miseria, ci sarà ribellione. Marcello Villarroel Sepúlveda, prigioniero sovversivo antiautoritario, carcere azienda di Rancagua, Stato del Cile, fine di agosto 2022. Bene, questi erano i Ballast, band canadese dell'area di Montreal, che avevamo già presentato inizio trasmissione, e questo è il loro album Sound Asleep, uscito nel 2005, band che comunque si era formata proprio agli inizi degli anni 2000 e poi in 3 anni ha fatto anche uscire ben 4 uscite discografiche, tra cui 3 12 pollici. E comunque ora andiamo invece all'ascolto di questo CD, è completamente autoprodotto, di 2 band italiane, si tratta di uno split ovviamente, ed è le 2 band che hanno partecipato a questa autoproduzione sono i Forest Hill e i Mastic, band un po' genere, non il solito HC punk che siamo abituati ad ascoltare questa trasmissione. Comunque noi ci ascoltiamo uno o due brani dei Forest Hill. Solo una precisazione, scusate, so che voi prendete nota di tutte queste cose che io dico, che la band che stiamo ascoltando non sono i Forest Hill ma bensì i Mastic, scusate per l'inversione delle 2 band. We'll be right back. Allora, per questa sera abbiamo pensato di presentare due iniziative, due mobilitazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni. In realtà è una settimana densa di mobilitazioni, ma insomma abbiamo scelto questi due momenti. Allora, per prima cosa parliamo di un presidio che si terrà giovedì 13 ottobre a Roma, un presidio comunicativo che si svolgerà nella mattinata appunto del 13 ottobre a Piazza del Risorgimento. Allora, questo presidio è stato indetto dall'Assemblea Antipsichiatrica, che è composta da vari collettivi appunto di orientamento antipsichiatrico, e è stato organizzato proprio per contestare e per far sentire la propria voce, insomma, contraria a un convegno, un incontro internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha come tema proprio la salute, sì, un incontro sulla salute mentale globale, diciamo, mondiale. E allora, questa chiamata nasce dal fatto che, poi vi leggerò il volantino, ma sinteticamente, praticamente questa assemblea antipsichiatrica ha ragione, individua nell'Organizzazione Mondiale della Sanità quella istituzione che rappresenta gli interessi e le tensioni, diciamo, della società capitalistica, oltre che delle multinazionali farmaceutiche. E l'OMS porta avanti, insomma, in questo tipo di convegni emerge in maniera chiara, e comunque in questi ultimi due anni, soprattutto di gestione della pandemia, questa cosa, insomma, è emersa appunto in maniera cristallina. Dicevo, l'OMS porta avanti un modello di società della prestazione, proprio un modello di società appunto basato su capitalistica, quindi basata su questa prestazione e anche sull'ansia da prestazione, e quindi porta avanti un modello di società che genera alienazione e anche malessere, diciamo depressione, chiamiamolo con questo termine. E appunto gli organizzatori, questa assemblea antipsichiatrica parla bene del fatto che nella società capitalistica, di fronte al malessere, e in questo caso si parla di malessere, diciamo, psicologico, di salute mentale, anche se è un brutto termine, e appunto le istituzioni si occupano dei sintomi e non delle cause che generano questo malessere, perché appunto si va a colpire il sintomo e quindi a individualizzare, diciamo, la problematica del malessere, ma non si va ovviamente, essendo interni a questa società, non si va a individuare le cause, quindi a migliorare le condizioni di vita. Le cause che cosa sono? Sono dovute alle disuguaglianze, ai soprusi, all'oppressione, allo sfruttamento, anche alle relazioni alienate tra gli individui. E però affrontare queste cause implica una rivoluzione della società che ovviamente le istituzioni che la fondano non possono accettare, insomma, e quindi ci si limita a occuparsi dei sintomi e a individualizzare, tra l'altro, cioè a responsabilizzare il singolo soggetto per il male che sente, per il male che patisce. E quindi, insomma, immettendolo in una sorta di spirale di assistenza medica che porta solamente disgrazie. Allora, vi leggo il volantino, che è molto, molto approfondito e molto interessante. Allora, intanto si inizia con il titolo di questa manifestazione è: il capitalismo nuoce gravemente alla salute. E tra l'altro nel volantino, diciamo, grafico che è stato prodotto, che ha come sottotitolo: non vogliono che stiamo bene, vogliono che stiamo buone, appunto, che non rompiamo, che non ci ribelliamo, che non modifichiamo la nostra vita. E c'è questa immagine di del cupolone con i due elettrodi dell'elettroshock, appunto il cupolone mentale. Allora, vi leggo una un estratto, diciamo, da un rapporto sulla situazione della salute mentale nel mondo, scritto appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una buona salute mentale consente alle persone di lavorare in modo produttivo e di realizzare appieno il proprio potenziale. Al contrario, una cattiva salute mentale interferisce con la capacità di lavorare, studiare e apprendere nuove competenze. Essa ostacola i risultati scolastici dei bambini e può avere un impatto sulle prospettive occupazionali future. I ricercatori stimano che solo a causa della depressione e dell'ansia si perdono ogni anno 12 miliardi di giorni lavorativi produttivi, per un costo di quasi 1.000 miliardi di dollari. Questo dato comprende i giorni persi per assenteismo, presenzialismo, quando si va al lavoro ma non si lavora, e turnover del personale. Quindi l'approccio, insomma, si capisce molto bene qual è un approccio di tipo economicista e produttivista. Quindi, ci dicono i compagni dell'assemblea antipsichiatrica, occuparsi delle cause non genera profitto. La gestione sanitaria dell'emergenza pandemica ha evidenziato una totale assenza di interventi diretti ad approfondire le cause che l'hanno determinata, occupandosi esclusivamente dei sintomi. Focalizzare l'attenzione sulla ricerca delle cause avrebbe significato inevitabilmente attuare una radicale trasformazione delle politiche sociali, economiche, ambientali, sanitarie e relazionali. Troppo costoso e quindi poco produttivo. La psichiatria funziona con le stesse modalità. Al presentarsi di una crisi non vengono prese in considerazione le cause che l'hanno determinata. La persona viene invece espropriata della possibilità di esprimere i propri significati e di autodeterminarsi attraverso un potere del tutto arbitrario, il cui interesse non è affatto quello dichiarato della cura, ma piuttosto la progressiva medicalizzazione e cronicizzazione della crisi. Lo Stato in questi due anni si è comportato allo stesso modo. In nome di una presunta irresponsabilità collettiva ha imposto le sue direttive dall'alto, imponendosi come organo iperrazionale, una mente che decide e sovradetermina il corpo sociale, che in quanto corpo è ad esso subordinato, secondo un dualismo riduzionista parapsichiatrico appunto. Lo Stato e i suoi tecnici hanno valutato lo stato di necessità secondo le leggi dell'economia e gestito l'emergenza crisi con la contenzione, cioè l'esproprio della salute, esattamente come avviene in psichiatria. Allo stesso modo si è imposto un trattamento farmacologico col ricatto, impedendo alle persone di esprimere il proprio consenso, assicurando l'immediato introito per Big Pharma e lasciando solo chi ha subito le conseguenze sulla propria salute degli effetti collaterali del vaccino. E ancora, per la libertà di scelta contro l'obbligo di cura. L'attuale prassi nelle istituzioni psichiatriche prevede l'assunzione obbligatoria di psicofarmaci che a lungo termine risultano il più delle volte essere dannosi e invalidanti. La progressiva cronicizzazione della sofferenza è funzionale, da un lato, alla presa in carico a vita, dall'altro, al profitto delle multinazionali del farmaco. La parola della persona non viene presa in considerazione o addirittura viene giudicata come sintomo della malattia, mentre vivere in una società fondata sulla prestazione e l'individualismo, la solitudine e l'assenza di una dimensione comunitaria sembra cosa del tutto normale. Si interviene sui sintomi categorizzandoli come espressione di malattia mentale, ricorrendo ai trattamenti sanitari obbligatori, alla contenzione fisica, meccanica e farmacologica. Nei centri di igiene mentale i colloqui sono troppo brevi e non c'è nessuna possibilità di essere ascoltate e ascoltati o di esprimere dubbi e difficoltà. Crediamo che rivendicare il diritto ad avere parola e ad autodeterminarsi significa anche riappropriarsi delle proprie esperienze, delle difficoltà, della sofferenza e della molteplicità di modi per affrontarla. Siamo convinte e convinti che ci siano persone, tra coloro che operano all'interno delle strutture sanitarie, che si rifiutano di essere complici di questo sistema di oppressione e che preferiscono slegare piuttosto che contenere, ascoltare piuttosto che mettere a tacere con i farmaci, essere solidali con chi si sottrae alle logiche di competizione. Sono loro che vorremmo al nostro fianco. Sì, a questo proposito, ad esempio, se andate a sentire i podcast di Radio Blackout, della trasmissione specificamente Bello Come, e c'è stato appunto Alberto, un compagno del collettivo antipsichiatrico Artaud, che a proposito di questa mobilitazione contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, diceva che molti gruppi, anche di operatori, diciamo, che lavorano in psichiatria, che non sono neanche antipsichiatrici, che però hanno sensibilità, hanno aderito a, e quindi parteciperanno a questo presidio. E parlando appunto di psichiatrizzazione e di medicalizzazione di ogni aspetto della vita, proprio Alberto ricordava una cosa che mi ha colpita, che nel nuovo DSM, questo manuale che parla insomma della fa un elenco in pratica di tutti i disturbi considerati legati alla malattia mentale cosiddetta, cioè disturbi psichiatrici, appunto nell'ultima versione del DSM il lutto prolungato diventa una patologia, quindi se che è una cosa allucinante, se il soggetto che ha subito un lutto insomma non si riprende in fretta e quindi non gli viene subito voglia di tornare a lavorare, che ne so, e di fare la vita come la faceva prima, scatta, cioè diventa una cosa patologica, e quindi questa cosa può essere considerata come una cosa da curare, per dire a che livelli di annientamento arriva questo approccio. Continuo a leggervi il volantino dell'iniziativa di giovedì 13 ottobre. Arriviamo alle tecnologie e alla digitalizzazione, la relazione negata. Infatti si parla sempre più spesso di salute mentale digitale, un processo che strumentalizza le retoriche dell'innovazione, dell'accessibilità e dell'inclusione, introducendo invece forme sempre più specializzate di controllo, disciplinamento ed esclusione. Una salute sempre più delegata al dispositivo tecnico, costruita intorno alle esigenze del mercato, dell'industria tecnologica e all'inesorabile sottrazione di reali spazi di soggettivazione, autodeterminazione e solidarietà dal basso. Ecco, poi i compagni dell'Assemblea Antipsichiatrica ci parlano anche contro il proibizionismo e per la riduzione del danno. E infatti ci dicono: c'è un'evidente contraddizione nei proclami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da un lato si promuove il consumo di sostanze psicotrope legali con effetti disastrosi. Parliamo degli psicofarmaci, ma parliamo anche del metadone, ad esempio, nelle strutture dei CERT. Dall'altro si criminalizza l'autoconsumo di sostanze psicoattive. Però dobbiamo ricordarci che al mondo un detenuto su 5 è in carcere per violazioni delle leggi sulle droghe. In Italia circa un terzo della popolazione detenuta è in carcere per questo motivo. Il proibizionismo non solo ha fallito, ma è esclusivamente funzionale al controllo sociale e a finanziare narcomafie e narcostati utili al riciclo e alla riproduzione del capitale. È fondamentale dare voce alle consumatrici e ai consumatori attivando politiche dal basso improntate alla riduzione del danno e al consumo consapevole. Per l'abolizione della contenzione e dell'elettroshock. Nonostante le belle parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei reparti psichiatrici si continua a morire legati nei letti di contenzione. Continuano ad essere praticati dispositivi manicomiali e coercitivi come l'uso dell'elettroshock, l'obbligo di cura, la contenzione farmacologica, le porte chiuse, legate alle finestre, le limitazioni e il controllo della libertà personale. Non c'è salute nei CPR, nelle carceri, nei reparti SPDC, che sarebbero i reparti dove fanno appunto il trattamento sanitario obbligatorio dentro gli ospedali, luoghi di tortura e annientamento delle persone. Non c'è salute dove c'è violenza e discriminazione di genere. senza diritto effettivo all'aborto e supporto alla genitorialità. Non c'è salute nelle politiche economiche che finanziano armamenti e guerre, sottraendo risorse alla collettività e ai bisogni delle persone. La salute che vogliamo si basa su percorsi di solidarietà, autogestione e mutualismo dal basso. È il frutto dell'interdipendenza tra corpi, condizioni sociali e ambientali. Non si può garantire salute per tutte e tutti senza lavoro, scuola, università, spazi comuni e di socialità liberati dalle logiche del profitto neoliberista. Crediamo che non ci sia bisogno di uno Stato, né di un'organizzazione mondiale che si proponga di riorganizzare e che sovradetermini la nostra salute e le nostre vite. Siamo convinte e convinti che ritrovarsi, ricostruire delle relazioni e delle comunità, riprendersi strade e spazi possa essere un primo passo per aprire un orizzonte nel quale dar vita a luoghi liberi dalle dinamiche individualistiche di sfruttamento e mercificazione. E questo era il volantino di indizione di questa manifestazione presidio, e appunto dal titolo "Il capitalismo nuoce gravemente alla salute", presidio contro il convegno internazionale sulla salute mentale organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si terrà giovedì 13 ottobre a partire dalle ore 11 a Piazza del Risorgimento a Roma. Bene, quelli che abbiamo ascoltato durante tutto l'intervento in sottofondo, ma anche adesso, questo ultimo brano, loro sono in Zona d'Ombra, band della zona di Como, e questo era il loro album uscito nel 2015, Guerra all'apatia. Ma ora invece andiamo all'ascolto di un'altra band sempre italiana. Loro sono invece della zona di Bologna, gli Into the Baobab, dal loro album datato 2012, Verdi acidi pensieri. Into the Baobab. Thank you. ha capito, e anche chi ha capito spesso ha preferito può abbassare lo sguardo indifferente, attacca un collettivo alle teste intramagite, siamo cultura e siamo cultura unica, state virolati insieme fanno dinamite, siamo cultura e siamo cultura unica, quanto produzione solidarietà scambio contro egoismo e loro guadagno, fanculo le etichette, noi siamo le nostre vite, sotto cultura e sotto cultura unica. Questi erano gli Into the Baobab, band dell'area di Bologna, dal loro album Verdi Acidi Pensieri, datato 2012. Mentre ora invece andiamo all'ascolto di questa band direttamente dall'Argentina, da Buenos Aires, è un loro album datato 2003, che è comunque un album completamente autoprodotto grazie alla coproduzione di varie etichette, tra cui anche due italiane, ma chi se ne frega, e comunque quasi totalmente del Centro America, comunque America Latina, Venezuela, eccetera eccetera, ma comunque sono dettagli secondari. Il loro album, come ho detto, si chiama Superficial e andiamo all'ascolto dei Migra Violenta. Migra Violenta. Sì, siamo sempre su Zardins Magnetics. Allora, rilanciamo un'iniziativa importante di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e cioè un corteo che si terrà a Milano questo sabato 8 ottobre, e un corteo per la liberazione e la non estradizione di Vincenzo Vecchi, compagno che appunto si trova ora in Francia, è stato condannato dall'Italia a 12 anni e mezzo di carcere per il reato di devastazione e saccheggio in occasione della sua opposizione, della partecipazione dell'opposizione al G8 di Genova del 2001. E Vincenzo si trova, è stato arrestato nel 2019, però per tutta una serie di faccende si trova in libertà, ma si trova in libertà anche perché nel paesino dove abita, ma in tutta la Francia, c'è stata una grande mobilitazione a suo favore. In Francia, diciamo, infatti qualche settimana fa abbiamo ospitato telefonicamente una compagna che fa parte del coordinamento di solidarietà con Vincenzo, la quale spiegava che in Francia c'è questa spontanea attitudine a opporsi a questo a questi tipi di incriminazione come quello di devastazione e saccheggio, appunto queste incriminazioni che vengono direttamente da Mussolini, questi reati che vengono direttamente dal codice Rocco di Mussolini e che vanno a colpire proprio la libertà di manifestare delle persone. E appunto dicevo, grazie a questa mobilitazione spontanea popolare, e Vincenzo si trova libero, però l'11 di ottobre insomma ci deve essere un pronunciamento su questa faccenda dell'estradizione, in quanto nel suo caso, come in altri casi, ne abbiamo parlato anche nel caso di David, che ha la stessa incriminazione però per i fatti di Roma, la manifestazione degli Indignados del 2011, e recentemente anche abbiamo saputo un altro compagno per i fatti del corteo No Expo di Milano. E per questi compagni viene applicato il famigerato mandato di arresto europeo, che è appunto questo dispositivo che permette un'estradizione rapida, diciamo, e un accordo veloce, sbrigativo tra gli stati, apparentemente tecnico, in realtà con una, diciamo, incisività politica pesante. Allora, per appunto opporsi a qualsiasi ipotesi di prigionia e di estradizione per Vincenzo, ma non solo per Vincenzo, per tutte e tutti i compagni e le compagne che rischiano questa sorte. E viene organizzato appunto questo corteo a Milano, concentramento a Porta Genova a partire dalle ore 15, e invitiamo tutti quanti a partecipare, anche chi può, anche da qua. Ehi, di merda! Sono al filo spinato, li senti? Ti ammazzo, Yankee! Sì. Ti serve un razzo? Yankee, stronzo! No. Ti ammazzo! È vicinissimo. È davvero vicino. Fottiti, Yankee! Fottiti, Yankee! Yankee di merda! Ti ammazzo! Yankee, fottiti! Yankee, fottiti! Stronzo! Yankee, stronzo! Yeah, he's on the deep. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band Berserk, che è così estrapolata da questo album, questo LP split, dove hanno partecipato addirittura quattro band tutte italiane, più o meno sono tutte della zona toscana, Liguria. Comunque rimaniamo all'ascolto dei Berserk. E altra cosa che volevo insomma specificare è che questo album split è anche uscito grazie alla collaborazione di oltre una decina di etichette che gravitano nel campo dell'autoproduzione qui in Italia, ma anche oltre, insomma in Europa, ma insomma gravitano. Rimanendo in argomento, cioè l'argomento è la repressione e l'accanimento dello Stato, anzi la vendetta dello Stato, degli Stati nei confronti dei compagni e delle compagne, come ultimo così contributo teorico, diciamo, non musicale, e volevo così leggervi un contributo importante, che è un articolo che ha scritto un compagno che dopo un anno e mezzo di arresti domiciliari si vede negare i 45 giorni annuali di sconto pena, diciamo, che sono previsti dalla legge quando non ci sono state evasioni o insomma o robe irregolari, diciamo, nella condotta del detenuto stesso. Allora, l'articolo si intitola Tecno Sharia, polizia della morale e psicopolizia. Adorno definì a suo tempo il fascismo come barbarie tecnicamente equipaggiata. Se quella definizione si segnalava come una delle più precise, essa lasciava non di meno nel vago e nell'ambivalenza il concetto di barbarie. Pensiamo, ad esempio, in ambito marxista al fortunato slogan socialismo o barbarie, caricatosi sempre più di positivismo e dell'ideologia di un avanzamento progressivo verso la società senza classi. Bordiga gli contrapponeva un risoluto e scandaloso comunismo o civiltà. Non solo lo sviluppo industriale e tecnologico non partorisce il comunismo, ma di per sé non democratizza né i costumi né i rapporti sociali. Con più di un secolo di anticipo su quei dibattiti, il giovanissimo Leopardi aveva già centrato la questione in uno dei primi pensieri del suo Zibaldone. La ragione è un lume, la natura vuole essere illuminata dalla ragione, non incendiata. Da questa folgorante intuizione discende la riflessione sulla coppia oppositiva civiltà-barbarie che attraversa tutta l'opera leopardiana. Barbarie, per il poeta filosofo, è sia ciò che precede quel lume, sia l'epoca dell'incendio conclamato e manifesto, trionfo di una ragione geometrica che è sistema falsissimo di parti verissime, cioè scelleraggine ragionata, artificializzazione delle vite e delle passioni, in poche parole eccesso di civiltà. Seguito ha dimostrato, non si trattava di un mero problema linguistico. Il mondo si dibatte ancora e sempre più rovinosamente in quell'ambivalenza, benché ne modifichi le forme storiche. Non è forse barbarie, tecnicamente equipaggiata, l'Islam 4.0 in costruzione in Iran? Un sistema che fonde Sharia, credito sociale e riconoscimento facciale? Leggiamo. In base alla nuova legge sull'hijab e sulla castità, promulgata in Iran il 15 agosto scorso, le donne che pubblicano le loro foto senza velo su internet subiranno la perdita temporanea di alcuni diritti sociali per un periodo che va da 6 mesi a 1 anno. Inoltre, alle donne ritenute non conformi sarà impedito di entrare negli uffici governativi, nelle banche o di viaggiare sui mezzi pubblici. Le dipendenti del governo saranno licenziate nel caso in cui le loro immagini sui social media non siano conformi con quanto dettato dalle leggi islamiche. Numerose donne sono state arrestate per non aver rispettato il codice di abbigliamento e costrette a confessare. E ancora, il governo iraniano ha in programma di utilizzare la tecnologia del riconoscimento facciale sui trasporti pubblici. L'annuncio viene direttamente dal segretario del ministero iraniano per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani. La tecnologia, come la natura che sa reifica, non fa salti. Dal 2015 il governo iraniano ha introdotto gradualmente le carte d'identità biometriche, che includono un chip in cui sono memorizzati dati come scansioni dell'iride, impronte digitali e immagini del viso. Oggi si teme che tali informazioni in possesso allo Stato possano essere utilizzate in concomitanza con la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare le persone che violano il codice di abbigliamento obbligatorio sia per le strade che su internet. Molti analisti sottolineano come il governo dell'Iran sia oggi in grado di rintracciare con estrema facilità i suoi cittadini ovunque si trovino. Intanto, alcune delle donne arrestate per aver sfidato il nuovo decreto del 15 agosto sono state identificate dopo che sono stati pubblicati online dei video che le ritraevano mentre venivano molestate sui mezzi pubblici perché non indossavano correttamente l'indumento. Insomma, è la polizia come gestione automatizzata della polis a rendere più efficace e oppressiva la polizia della moralità. Il servilismo e l'adesione fanatica di tanti oppressi che si fanno a loro volta oppressori sono invece abiezioni che attraversano tutti i gradi di sviluppo tecnico. E ci dice ancora questo compagno: mentre partecipo con tutto il cuore alla coraggiosa rivolta delle donne iraniane che sfidano sia le ingiunzioni high tech della polizia morale sia il piombo assassino di quella in uniforme, sputo in faccia a chi invece di raccogliere quell'esempio per insubordinarsi alla barbarie tecnicamente equipaggiata che imprigiona anche noi e che ci sta portando dritti alla guerra mondiale, contrappone con malcelato razzismo le libertà occidentali al patriarcato algoritmico iraniano. Proprio mentre scrivo queste note, la polizia giudiziaria mi notifica la decisione della magistrata di sorveglianza di negarmi per il terzo semestre della mia detenzione domiciliare i 45 giorni di liberazione anticipata, cioè quello sconto di pena che dovrebbe essere automatico in assenza di rapporti disciplinari in carcere o di violazione delle prescrizioni giudiziarie durante le cosiddette misure alternative. La magistrata mi comunica che, nonostante la mia condotta sia stata formalmente corretta, ho mantenuto un ruolo propulsore sotto il profilo ideologico e una spinta antistato. Atteggiamenti che non sfugga la prosa togata, tra vezzi letterari d'antan e concetti di ortopedia sociale a metà tra l'ombroso e lo stalinismo, lumeggiano sul mancato avvio del percorso di revisione critica del vissuto deviante da parte del condannato e sulla mancata effettiva partecipazione da parte sua all'opera rieducativa. Ora, se la contestazione di un reato, non il resto in sé ovviamente, è un fatto oggettivo, come si misura la rieducazione o il ravvedimento di un condannato? Nel mio caso, attraverso un testo sull'omicidio di Matteo Tenni da parte di un carabiniere ad Ala, in provincia di Trento, il 9 aprile 2021 e sulla successiva archiviazione. Insomma, io sono libero di scrivere, non siamo mica in Russia o in Iran. Loro sono liberi di prolungare la mia detenzione per ciò che scrivo, appellandosi in assenza di reati alle spinte che le mie parole esprimono. Se il demerito giudiziario di non essermi ravveduto e di mantenere un atteggiamento antistato è per me motivo d'orgoglio, registro che la polizia dei costumi morali alle nostre latitudini assume la forma della psicopolizia da tribunale. We'll be right back. Bene, questi che abbiamo ascoltato adesso è una band di Livorno, i Carogna, che fanno parte di questo split con quattro band all'interno, uno split 12 pollici uscito nel 2007. Prima avevamo ascoltato i Berserk, gli altri due band che fanno parte sempre di questo split ma che non abbiamo ascoltato sono gli Angst TV e i Bestiame. Ora invece andiamo ad ascoltarci da un loro ultimo album, i quasi locali, Minoranza di Uno. Majakowski al poligono di tiro mi ha sussurrato che è essenziale prendere bene la mira per far esplodere la gioia dei giorni futuri, il mondo e tutto il resto. Magra consolazione, mi dice, parlare di rivolta, di tamburi e di piombo, adesso che le barricate le facciamo dentro ai centri commerciali, che al posto dei soviet abbiamo sale d'aspetto, dalle pareti bianche se non nere, che le fabbriche sono solo prigioni, ma che in fondo lo sono sempre state, che l'anima non disprezza più i soldi, ma sono i soldi a disprezzare l'anima. Non aspettarti alcunché, neanche da questa pistola che se spara, spara a salve, o perlomeno lo saprai solo dopo aver premuto il grilletto. Quindi, figliolo, ripete, prendi bene la mira e fai esplodere tutto, o almeno provaci, e che le tue idee vengano sparse nel vento. Bene, allora 21 e 22 circa, siamo sempre su siete sempre su Zardins Magnetics, e prima di salutarvi vi ricordo i due appuntamenti politici di cui abbiamo parlato stasera. Allora, Milano, sabato 8 ottobre alle ore 15, concentramento Porta Genova, corteo per Vincenzo, nessuna prigione, nessuna estradizione. E poi giovedì 13 ottobre alle ore 11 in Piazza del Risorgimento a Roma, presidio comunicativo, il capitalismo nuoce gravemente alla salute, contro un incontro sulla salute mentale organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E un saluto e alla prossima. Resta di noi. sicurezza. Esiste uno spazio senza che la chiave porti sicurezza. Esiste uno spazio senza che la chiave porti sicurezza. Lancia un sasso, il fatto costituisce reato. Se vengono lanciati 1000 sassi, diventa un'azione politica. Se si dà fuoco a una macchina, il fatto costituisce reato. Se invece si bruciano centinaia di macchine, diventa un'azione politica. Io non la voglio più mangiare. La protesta è quando dico che una cosa non mi sta bene. L'opposizione è quando faccio in modo che quello che adesso non mi piace non succeda più. Questo silenzio assordante, ma non fa più rumore di nulla che non abbia già sentito. Bene, lasciamo in sottofondo questa band che sono in minoranza di uno, band della zona tra Gorizia e Trieste. Da questo loro album datato 2019, ma prima anche di passare così all'ascolto di un'ultima band, di un ultimo disco, vi ricordo che appunto siamo anche quasi giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che inizia alle ore 20 e termina alle ore 21:30, totalmente in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. E come poi di consueto anche vi leggiamo i nostri contatti, se volete insomma scriverci o contattarci, vi lascio un indirizzo di posta elettronica che è liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete anche farlo in forma cartacea, intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto anche questo, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre siamo anche su Telegram, cercando t.me/Zardins. Ma altra cosa molto importante, che questa trasmissione potete risentirla, ma anche ovviamente tutte le precedenti, andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ora ci salutiamo, proprio siamo giunti al termine della trasmissione, quindi appuntamento al prossimo giovedì, e vi lascio con un brano da questo 7 pollici datato 1992, una band di Aosta, dal loro 7 pollici, non dimentichiamo, loro sono gli Antenati. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.